sono quelle, sì. Va bene, mi prendete, Luca? E almeno lo faccio a misura, dai. La faccio quell'antenna, me la metto per ascoltare, già c'ho un altro ricevitore e vi accoccio un bissa. E con l'altra lo stesso, col dipolo, così arrivano più bene. Sai che quell'antenna, caspita, è del 2010, quando è uscita, mi pare, quando l'ho presa. E praticamente la mia è seminuova, per non dire nuova, non ha mai preso pioggia, l'ho sempre tenuta bene, e che non la sfrutto. Vabbè, riprende Gianni. Ehi, e qui devo risalire sul tetto? Ehi, per piazzare il dipolo devo salire sul tetto. Che casino. Bisognava purissimo. Ehi, ma me lo posso dire, su una bomba deve uscire, quel di poco. Tutte le misure, quanto, me lo costa, almeno faccio qualcosa, cazzo. Ma per i 40 metri? E allora? E così arrivano più bene, capito? Col di polo arrivano meglio. Già li ascolto anche con questa, l'antenna, ma non arrivano come devono arrivare. Poi c'ho anche il DSP, cazzo, col DSP è una figata. Ma io già li ascolto bene anche con l'antenna della VT7, ascolto tutto. Ma arrivano bassi, capito? Non arrivi come ti devi arrivare. Invece col dipolo arrivano col segnale suo proprio. No, non arrivano bassi, 9.10, 9.15, non arrivano bassi, io ti sento perfettamente. Ma di notte però? No, di giorno e di notte, sempre. E quando accendo il ricevitore ti sento benissimo, proprio come se fossero qua. Ma io li sento più bassi, e infatti è per quello che mi metto l'antenna sua. No, io sento belli furti, aspetta. Ci sono gente che arriverà anche 9.20, 9.30. Io sento furti, io sento bene. Con l'antenna della 26 l'ascolto, sui 40 metri, eppure gli altri frequenze non ci vado mai. Certo, non c'è mai nessuno, di solito sui 40 metri che c'è gente. Ehi, a me mi piace ascoltare il salotto che fanno. Non è per ascoltare né DX, né Ghisi, né Ghidu. Mi ascolto solo quello lì che mi piace dei 40. E anche io ascolto queste cose qua, tipo come lo facciamo noi, lo fa. E poi i contest che, vabbè, che sono molto, diciamo così, veloci, che dicono segnare cose da usare come te, e poi passano all'altro. E infatti il contest non mi piace, neanche a me. Mi ascolto quello lì. Adesso, appena c'è un po' di tempo, mi faccio quell'antenna. Ne devo fare due, una a me e una a Franco. E le faccio proprio. Bene. Ma vediamo un po'. Me lo vedo un ricevitore, tanto. Non lo uso da te, lo uso qualche volta. Io ce l'ho il ricevitore, ma ne ho messo solo l'antenna di qua sul tetto, non ne volevo mettere altre perché no, mi metterò quel di polo in due, ma con guai, tanto qua ci mettono poco a rompermi le scatole. E infatti, è da ignorare, li dratto io. Quando eri in campagna già ti ne avevate di pure di gozzo, e se di polo che c'avevi, ve lo ricordo ancora. Cazzo, viene con la scala, niente, in chili, cazzo, poi chi sia posto, chi sa cosa. Era bello veramente quel di polo, multibanda, cazzo. quello lì, Salvatore parlava con l'Inghilterra, con tutti i dubbi di pura, andava bene così. E te credo. L'isola Svalbard abbiamo collegato, cosa noi abbiamo collegato? In 80 metri che attraversiamo in fondo scala, i guriani, la Zagigna che no, che gli mancavano, ha dovuto fare la lista Salvatore, la buon'anima, ha dovuto fare, e li chiamava per nominativo, no? Sì, perché quando gli manca vogliono farlo il contest, capito? Io mi ricordo che c'era un programma al computer tutto gatto che ti segnalava dove c'era la propagazione, tutto gatto gli dice. Lì non è come qua, no. Lì gatto c'è il cluster, ti collega i ginchivi, gatto, e andavano a quei fusi guru. Non è come te nomi. L'altro giorno la Norvegia, la Finlandia mi ha risposto. Certo. Come parlava in inglese? Beh, per forza in inglese devi parlare, se no non ti considerano. Marcus, ma Lucretia è nato? E i dirighetti vanno da un luogo all'altro, di Bassicata, chi su Marco Rumattesi? Pure io devo uscire, non ho voglia ma devo uscire. Guarda, stavo riassettando qua e poi si vedrà. Così mi dice. Come? Così mi dice. Boh, non ti ho capito, no. Ho detto così mi dice che deve uscire. Sì, l'ho detto senza entusiasmo che non ha giugana. Marco, mi ho rinnovato il porto d'armi e adesso come lo ritiro andiamo a farci due tiri. Sì, me l'hai detto già due volte, Natale. Me l'hai detto l'altro ieri e eccetera, vabbè. Sì, ma lo sai che non ci sono, sono indolente io. E se spari con la pistola vera ti do un'altra cosa. Aspetta che hanno suonato, che deve essere mia moglie, è tornata col cagnetto. Ma perché lui può sparare con la pistola vera? Se non c'è a porto d'armi non può sparare. Ma io ci ho già sparato, Natalì. Terreno privato, io ho provato una 98 che sbagliava sempre in basso a sinistra e una Sig Sauer P226 che era un laser. Erano le tue? Come già? Le tue? No, non erano mie, una era di carabinieri o ex carabinieri che per i 28, non so, guardia del corpo, non so di quale agacanna o di chi era. E l'altro era un istruttore in polizia, stiamo parlando degli anni fine anni 80. La baretta, vabbè, costava tipo 700-800 mila lire, la Sig Sauer costava 2 milioni e mezzo, ma Gianni, un laser che tu dove puntavi dava, la baretta sbagliava in basso a sinistra, non so se lo facciano tutte. Tutte lo fanno, quello lì. La mia è un laser, la mia dove mi va? E indovina perché? La tua è austriaca, la Sig Sauer mi pare sia svizzera e quelli con la precisione hanno la mania, eh? La mia è leggera e precisa. Cazzo, io c'avevo un attanfuglio che faceva lo stesso scherzo, sparava in basso e a sinistra, sì. Quella lì l'ho dovuta modificare, se no non potevi sparare con quello. E siccome dovevo far le gare gli ho messo il mirino sportivo, di quello regolabile, la giubbotta a zero e allora andava bene, perché con le mire sue, Gesù Cristo mio. Sì, sì, ma poi ho letto che uno era andato a difendersi invece con un'arma sportiva, no? Arma da fuoco catalogata come arma sportiva e praticamente in tribunale gli hanno detto che quasi non doveva difendersi con quella perché era un'arma non comune catalogata non sportiva, cioè doveva farsi ammazzare, capito, dai ladri in casa, e questi sono fuori di testa. Sì, sì, è proibito, con le armi sportive non puoi difenderti, devi avere un'arma catalogata comune, se no, non ti puoi difendere, è vero. Vabbè, però quando queste cose succedono a giudici, a gente VIP, non gli dicono mai niente, capito? Lo dicono al normale, al comune cittadino, cui puoi rompere le palle, capito? Invece alla classe eletta non dicono mai nulla. Ma qui anche, vabbè, sì, è vero, però, cioè, i giudici ragionano dal loro bello, da quel trespolo da dove stanno a sentenziare. Fanno una vita tutta super protetta, capito? Non hanno a che fare con la vita comune, mi, capito? Allora posso dirlo a parole mie, ci hanno il culo al caldo, capito? Non vivono la vita come la viviamo noi, con i casini di condomini, di gente tipo aggredire per strada, c'hanno sempre o la scorta o, capito? Sono tutelati. E fini menina, ci sono tante di quelle leggi che hanno cambiato, assurde, ma assurde, mi. Ma scusa, che differenza c'è tra l'arma sportiva e l'arma normale, l'arma comune? La differenza è il tipo di porta d'arma. No, cosa c'entra quello? Se tu sei in casa tua non viene bisogno di busto d'arma. Spiegagli Natalì come è catalogata, la stessa arma può essere catalogata come sportiva oppure se ha le mire già regolabili, come spiegagli bene. No, quella a uso comune c'ha le mire normali, capito, non ce le ha regolabili, invece quelle regolabili ce le hanno quelle sportive per essere più precise, più tutto, loro in modo che tu manchi il bersaglio. Dicono di usare quelle per difendersi, per dare la possibilità al ladro di salvarsi. Però se capita a me, gli pongo una palla in fronte e non si salva di sicuro. Solo in posizione orizzontale decidono. Sì, già, sono leggi stupide, secondo me, c'è. E poi anche avere un'arma comune, con mire non regolabili, dove spari e non becchi, dove miri, a me sembra una menata, non capito? Leggi stupide fatte rispettare da persone altrettanto stupide. E poi se uno ha il portarmi sportivo, si suppone che sia addestrato, tu gli dai anche un'arma comune, ti bizzicheggiano a stessi, perché lui aggiusta la mira, no? Se anche sparavo in basso io sapevo come dovevo sparare con la tampuglio, ma sparavo un bel in basso, mi, col cavolo beccavi tu con quella pistola, perché era peggio della beretta. Sì, ma Natali, quindi se tu hai il fucile per caccia, no? Come tu già hai avuto, in teoria ti serve solo per caccia, non ti potresti difendere con quello, così è. Grazie per la compagnia, correti per me. Ciao Luca, buon QRT. Sì che ti puoi difendere col fucile da caccia, non è arma comune. Cosa cazzo Luca? Non è Luca. Che è? Vabbè, QRT uguale. Ah, è vicino, Ah, qua arriva 7. Ecco. Allora, sto scendo. Stavo scendo a casa sua quello. E faccio che è basso per essere Luca, è troppo basso. E non l'ho conosciuto perché a me mi arrivi sempre in modo scala. Ma non potevo essere Luca, è tutta grossa sullo studio per domani. Quindi Natali è la catalogazione che vale, che ne ho capito, va bene. E infatti, sto cercando un tasto qua, a Fanguarla, e dov'è? Milomi. Ah, quello lì sempre fondo scala mi arriva, e non l'ho conosciuto, sembrava Luca, sembrava. Sì, lì c'è attaccato, cioè lì è verificante. E quindi già, io perché mi ero rotto le scatole anni 80-90, ho chiesto tutta la lista dei documenti, troppa burocrazia c'è dietro, e questo lo devi fare in questo modo, questo in là, devi fare lo stesso percorso, se devi portare cosa al poligono, ho detto ma cammino lo facevo, poi tutti i soldi che mi uscivano, perché avevo fatto il conto di tutto quello che ti devi affittare quando vai lì, e ho detto no, non ne vale la pena, non c'è abbastanza passione. Luca, sono tre cartucce con il piombo, diciamo, leggero, devi prendere, lì in affitto, poi, vabbè, devi pagare, dai, con il piombo dolce. Quello vuol dire cattermi, con la stessa piazza a filo di bossolo, c'hanno la carica di polvere ridotta, quindi a malapena arriva al bersaglio il proiettile, ti impiomba la canna, cioè piombo nudo, ma per i revolver sto dicendo, eh. E puoi sparare quello che vuoi, puoi sparare. Vai a dalle impegno. Io addirittura tutte corazzate le cartucce. Dipende dai poligoni, in certi poligoni facevano, dice se possibile usate quelle piombo morbido perché se no le buttate, sai, a furia di sparare migliaia di colpi, no? Tutti gli utenti che vanno, non, qua non vogliono usare roba magnum, quello in via al poligono, ci sono troppe limitazioni, va, ti ribassa la gamma, capito? Ah, tanto vale andare dove va, Natalino, certo è distante però ti diverti, li puoi usare di tutto, no? Io poi sono fare anche tirate per lì, sono andato. Quindi ritenetevi salutati tutti. E alla prossima fois. Ciao Marco, ciao. Ehi, c'ho il dovere, dai. Ci sentiamo, Natalino, vabbè, se rientra. Vabbè, salutalo tu, se è rientrato lo saluto adesso. Ciao Marco, dai, buon tutto, dai, già ti ho sentito che stavo dando il premio a Kurt che ci aveva mangiato tutto, se no si metteva a abbaiare e mi rompe le scatole, se non ridocco e tu si bosa, no? E allora tu devi dare un premio, se tu non lo caghi, allora si mette a abbaiare. Cosa le dai, viste? E un pezzettino di buste li do. Mi hanno suonato, scusate. Ehi, allora corretti, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ci sentiamo. Dai, chiudo anch'io, Natalia, ci sentiamo domani, dai. A domani. Ciao. Ciao già, ciao, alle prossime, dai. Ciao Franco, se sei in ascolto, corretti per me.